la versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, ben tornati al nostro appuntamento in questo venerdì 27 di marzo e grazie a chi ci ascolta anche in podcast, ricordate sempre l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per segnalare ovviamente argomenti di trasmissione o per proporre le vostre storie. Vado subito al punto della trasmissione di oggi perché ci occupiamo di due aspetti diversi, nella prima parte e nella seconda, uno positivo e uno negativo. Raccolgo l'invito che viene da molti a non concentrarci solo sulle criticità e sul dire che tutto va storto. No, non è vero, naturalmente il nostro compito è soprattutto quello di criticare le cose che potrebbero andare meglio, però parlando di fisco oggi restiamo su un argomento, un classico da battaglia di questa trasmissione del sottoscritto conduttore. Vediamo appunto due cose, una positiva e una invece classicamente paradossale del rapporto incerto tra fisco e contribuenti italiani. Allora, in questa prima parte vedremo la novità che scatta dal 1 aprile, quindi oramai tra pochissimi giorni, con l'adozione oramai estesa dopo le prime procedure sperimentali da giugno del 2014, e invece dal 1 aprile scatta, così come era stato previsto, e quindi senza proroghe, e questa già è una bella notizia, è una stranezza rispetto alla macchina pubblica italiana, la fatturazione elettronica tra l'intera pubblica amministrazione e i suoi fornitori. E naturalmente questo significa un cambio, devo dire, abbastanza epocale della regolazione dei rapporti. I fornitori della pubblica amministrazione sono oltre 2 milioni nel nostro paese e ben 35.000 enti e amministrazioni pubbliche a diverso livello tra centrali e locali, e quindi si tratta di capire se davvero sono risolte, come ha detto ieri il direttore dell'Agenzia delle Entrate Orlandi, presentando questa scadenza del 1 aprile a tutti i suoi vantaggi, sono davvero risolte le criticità che in questi mesi sono state registrate, perché riguardavano il 17% delle fatturazioni. La Orlandi ha detto che siamo scesi sotto il 15%, però insomma c'è di che essere tranquilli, primo punto. Secondo, che cosa significherà? Minori adempimenti o adempimenti semplificati davvero per i fornitori rispetto a come funzionava prima? Significherà davvero una accelerazione, più rapidità nei tempi di pagamento della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori? Questo è un classico, sapete, da anni questo problema dichiarato risolto a un certo punto dall'attuale governo, e che a giudizio del sottoscritto e delle migliaia di lettere che riceviamo e di segnalazioni da parte vostra non è risolto, ma certo sarebbe un passo avanti se almeno da questo momento in poi non si accumulasse altro progresso, come è invece puntualmente avvenuto rispetto al fatto, ve lo ricordo, che i pagamenti con oltre 50 miliardi messi a disposizione per far piazza pulita del debito commerciale accumulato le pubbliche amministrazioni nei confronti dei loro fornitori si riferivano però allo storico accumulato risultante a dicembre del 2013. Nel frattempo altro se n'è aggiunto, perché lo abbiamo testimoniato con le nostre trasmissioni in diversi settori, non solo la sanità, in alcune regioni e così via. Però la domanda è: con la fatturazione elettronica adesso tutto questo eviterà l'accumulo di altro pregresso che sfora i tempi posti dalla direttiva europea per i pagamenti della pubblica amministrazione e anche tra privati? Allora, ci sono tante domande di questo tipo e ce ne occupiamo in questa prima parte della trasmissione. Nella seconda invece andremo a parlare di una imposta che sembrava non dover gravare su un certo tipo di impianti e che invece sembra adesso al contrario, quindi come sempre lo Stato poi non è un maestro nel far capire ai contribuenti quanto devono pagare, se sono esenti o meno, perché modifica questo regime nel corso del tempo. Ma intanto cominciamo dalla prima cosa, cioè dalla fatturazione elettronica. Abbiamo con noi, per parlarne, capire meglio, approfondire sia le criticità che le valutazioni positive, Giacomo Portas che è un parlamentare, è un deputato del Partito Democratico ed è qui in, per la sua qualità di presidente della commissione sull'anagrafe tributaria. Anche lui ieri ha partecipato appunto all'evento in cui si è fatto il punto di questo cambio di regime, una svolta che dovrebbe appunto avvenire oramai tra pochissimi giorni. Comunque buon pomeriggio e grazie a Giacomo Portas per essere buongiorno, con noi. Buongiorno a lei. Allora, cominciamo dalle criticità. Secondo lei i 6 mesi che abbiamo alle spalle hanno davvero consentito di risolverlo i problemi insomma che erano inevitabilmente, no, manifestati all'inizio? Ma guardi, che ci sia dei problemi su una svolta secondo noi epocale, no? Immagini che basta pensare che da tra pochi giorni non ci saranno più gli archivi cartacei. Immaginate, non so, io ho visitato l'archivio della Regione Lazio, un capannone dove vengono conservate le fatture mediche. Immaginate solo l'approvvigionamento, l'acquisto delle pubbliche amministrazioni della carta per la fattura. E tutto questo chiaramente è un grande risparmio del cittadino. Che non ci siano problematiche, questo non lo posso garantire, anche se io mi fido molto della SOGEI, dall'Agenzia delle Entrate, che dice che a oggi in una spia sperimentale non più di 15% di errore, e sono errori marginali. Comunque in questo le dico solo che noi continueremo a fare il nostro mestiere Radio 24, quindi diciamo subito a chi è in ascolto, se ci girate eventuali segnalazioni, noi poi con le trasmissioni chiameremo SOGEI, l'Agenzia delle Entrate, l'onorevole Portas, e ne parleremo, perché è la cosa migliore per far funzionare le cose meglio, rilevare le cose che eventualmente non funzionassero. Però ecco, quindi la criticità, fidiamoci dei tecnici pubblici da questo punto di vista. Quando lei diceva risparmi per i fornitori, in concreto che cosa potrebbe voler dire? Ma l'ho detto prima, in concreto immagini solo l'archiviazione del cartaceo, io parlo dei cittadini, nel senso che comunque sono tutte le spese dello Stato, dall'acquisto delle piccole, l'acquisto anche di tutti le ASL per quanto riguarda le regioni, i comuni, degli enti pubblici, della carta e della conservazione della carta, con la fatturazione elettronica in sostanza in 25 minuti è come mandare una mail. Per cui si eviterà l'acquisto della carta e la conservazione della carta. Lei ha fatto, ieri ha citato uno studio del Politecnico di Milano con una cifra anche approssimativa. Sì, intorno ai 2 miliardi, 1 miliardo e 700, 2 miliardi di euro risparmiati. Al di là del risparmio però, in futuro chiaramente molto più veloce, come mandare una mail, poi sarà una fattura. Io ricordo negli anni 90 che c'era gente che i problemi delle mail erano di rilevanti, nel senso che a volte non arrivavano, c'erano delle confusioni. Però oggi proviamo a immaginare come sarebbe il mondo senza la posta elettronica. Ah beh, sarebbe un mondo molto diverso da quello che conosciamo, come ovvio. Ricorda negli anni 90 le problematiche che c'erano tra negli uffici di mandare la posta che non arrivava, e magari bisognava mandare la lettera, la comunicazione della malattia via lettera. Cioè, io appartengo alla generazione giornalisti nata con le macchine per scrivere manuali e senza telefonini, quindi purtroppo sono vecchio abbastanza. Se si ricorda c'erano delle problematiche negli uffici, mi ricordo, però oggi proviamo a immaginare questo. Dico ai cittadini che cosa sarebbe l'Italia senza il mondo, senza fatturazione, senza la mail. Per cui la fatturazione elettronica io ritengo che sia poi un sistema che quando sarà a regime farà risparmiare, ma renderà anche l'Italia un po' più moderna. Un po' più moderna. A suo giudizio, il fatto che si procede praticamente, formalmente e sostanzialmente solo per questa via di fatturazione elettronica con la pubblica amministrazione d'ora in poi, consente anche, e in che modo secondo lei, la soluzione di due problemi? Primo problema, quello dei ritardi di pagamento, perché giustamente già vedo qualcuno che con gli sms dice, beh, ho capito, la fatturazione può essere cartacea o elettronica, non è che questo naturalmente impegni in maniera diversa l'ente o il soggetto pubblico a pagarmi nei termini. Quindi primo problema, quello delle scadenze rispettate di pagamento. Secondo problema, in ordine invece, e qui cambiamo argomento perché andiamo a un argomento macro, non micro, cioè l'equilibrio di bilancio, da questo punto di vista questa modalità è anche asservita a un controllo più capillare da parte del Ministero dell'Economia sul reale di cassa e di competenza, ma in questo caso di cassa poi oltre che per competenza, della spesa pubblica in tutti i 35.000 centri di spesa, oppure è una via formale di regolazione dei rapporti che in realtà non fa parte anche poi di un monitoraggio più capillare di come sta andando la spesa? Bene, io provo. Allora, la prima domanda era i vantaggi sul pagamento ai fornitori. Guardi, su questo a me non va di raccontare assolutamente le cose che non conosco. Una cosa è certa, però questa la posso garantire, che dal 1 aprile i fornitori e i creditori non dovranno più indicare nella piattaforma di certificazione tutti i dati del credito, per cui in teoria è una pratica, è una procedura molto più snella per l'eventuale credito da risarcire tra i fornitori. Però chiaramente questo è un problema un po' più economico, un po' più politico, perché è vero, l'ha detto lei, sentivo quello che perché, nella presentazione... perché a questo punto, per essere, per dirlo a chi non è un fornitore ma ci sta ascoltando, mentre è capitato che per accedere alle modalità per cui erano stati stanziati decine di miliardi per lo smaltimento dell'accumulato di debito commerciale dei fornitori, bisognava che il creditore, per così dire, certificasse l'intero andamento del suo credito, adesso risulta subito in maniera elettronica. Ecco, bravissimo, è proprio qui. Il sistema, che si chiama PCC, che vuol dire certificazione del credito, in sostanza era una procedura secondo me un po' lenta. Con questo sistema di fatturazione elettronica questo non esiste più, dal 1 aprile questo non esiste più. Però il problema poi non è il fatto di certificare o no il debito, il problema vero è che ci siano i soldi per pagarlo. Esatto, questo resta come problema. Questo resta, non è una cosa che posso rispondere io, chiaramente si sta cercando... Non che non posso rispondere, non voglio rispondere, no, mi vado a raccontare delle bugie. Non sta nella sua competenza. Io spero che comunque qualcosa si sta facendo, però non è la fatturazione in se stesso, e se ci sono i soldi per pagare i debiti, parliamoci molto chiaramente. Un'altra problematica, secondo me importante, una cosa importante della fatturazione elettronica è il controllo della spesa. Le faccio un esempio molto banale, in commissione di canale abbiamo discusso tante volte con l'ingegner Canassa e con l'Agenzia delle Entrate, e anche prima con Cottarelli, adesso non c'è più, che era responsabile della Spending Review italiana. Già. Con la fatturazione elettronica, molto banalmente, è molto più semplice andare a ricercare il costo di una fattura. Nel senso, traduco, io sono un piemontese, se una scuola di Vercelli ha 1000 metri quadri e spende 1000 euro, un numero a caso, di riscaldamento, e la scuola vicino di Novara, per cui il stesso clima, che a 1000 metri quadri invece spende 2000 euro di riscaldamento, con la fatturazione elettronica è molto più semplice individuare delle anomalie. Non c'è dubbio. Molto importante. Io ci aggiungo anche, questo sempre per far comprendere meglio chi è in ascolto, ecco, e non è troppo esperto di contabilità pubblica. In Italia noi abbiamo due grandi sistemi di rilevazione della spesa pubblica, purtroppo distinti, nel senso che il MEF, e quindi il governo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, procede a rilevare la spesa per competenza. Invece poi sta alla Banca d'Italia procedere alla rilevazione della spesa per cassa, cioè i mandati di pagamento. Questo è alla fonte di parecchi problemi storici nel nostro paese, perché sarebbe stato meglio uniformare il controllo dei flussi di competenza e di cassa. Questo ha fatto accumulare nel tempo molti miliardi, questo spiegava le variazioni della stima del debito accumulato tra cassa e competenza, perché magari molte amministrazioni strette dal patto di stabilità procedevano a impegni di spesa registrandoli come investimenti. Gli investimenti nel nostro paese si rilevano solo attraverso spese di cassa, non di competenza, altra anomalia della contabilità pubblica italiana. Magari non erano spese in investimenti, ma erano invece da mettere in conto economico e per competenza, ma non facendolo non si incorreva nella violazione del patto di stabilità. Resta il fatto che al MEF poi non risultava mai chiaro quanti davvero erano le spese accumulate, perché ce n'erano alcune registrabili solo all'atto del pagamento perché non occupavano competenza. Diciamo che da questo punto di vista anche a questo dovrebbe servire il flusso per cui è tutto certificato, perché diventa molto più facile per il MEF capire se gli impegni, le fatture, gli impegni di spesa dei centri decentrati della spesa pubblica sono davvero di spesa corrente o sono davvero per investimenti, è vero o no? Giusto, la differenza, l'ha spiegato bene, ci sono spesa corrente e spesa in conto capitale. Esatto. Ma la cosa che mi permette di dire in maniera non forbita come lei, che conosco bene come esperto di economia, io non sono tale, però la cosa che secondo me i cittadini dovrebbe far pensare è che oggi in Italia, solo nella fattura delle fatture tradizionali, quelle cartacee, c'è il 10% di doppioni. C'è il 10% di doppioni. Con questo sistema è veramente impossibile che ci sia il doppione. E traduco di nuovo in maniera, per farmi capire meglio se ci riesco, che nel controllo della spesa pubblica non sempre i dirigenti di una regione o di un comune sono voglio dire, dei delinquenti. A volte le posso garantire che è quasi impossibile andare a pagare la spesa. Le do atto. Lei lo sa. Le do atto. È proprio quasi impossibile andare alla ricerca, perché poi la spesa e la fattura è un ammontare di n situazioni di spesa, per cui il dirigente non può neanche andare a verificare. Così, noi parliamo spesso in televisione, lei è un personaggio pubblico, sa bene, se lo ricorderà, della famosa siringa, no? Ma come si fa a controllare la siringa? Esattamente. Cioè, una banalità, quando vanno in televisione a dire quelle cose io rido, perché tanto non potranno mai controllarla. Esattamente. Allora, siccome ci sono tutte le ASL nei 35.000 centri pubblici che d'ora in poi fanno solo per fatturazione elettronica, adesso noi diamo atto a Porta, se gli altri che hanno lavorato sono battuti per questo, che la novità c'è, la giudicheremo nel tempo. Intanto grazie a Giacomo Porto, se adesso andiamo all'informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati a occuparci, abbiamo visto un aspetto positivo, vedremo, del rapporto fiscale di pagamento tra cittadini e pubblica amministrazione. Dal 1 aprile scatta per tutte le pubbliche amministrazioni italiane l'obbligo di fatturazione elettronica, quindi più di 2 milioni di fornitori. Vedremo, fateci sapere se la cosa veramente va senza intoppi come ci promettono, ma è sicuramente però una cosa positiva. E invece vediamo un altro aspetto, questa volta negativo, dell'incertezza fiscale che grava su tutti noi come sempre. In questo caso stiamo parlando di una questione che apparentemente è periferica, ma dà l'idea, come sempre, dei guai in cui ci si infila. La domanda è: ma chi ha una funivia, una teleferica, un impianto di risalita deve pagare l'IMU oppure no? Ecco, voi direte, insomma, sarà chiaro nelle leggi? No, neanche per niente, perché nelle norme sembrava di no. Poi arriva una sentenza e dice sì, e a questo punto naturalmente tutti coloro che sono in queste condizioni dicono: bene, a che santo mi voto per capire che cosa devo fare? E un esempio chiaramente che facciamo solo per farvi capire che quando vi arrivano le prediche della legalità da parte dello Stato in termini tributari, bisogna prenderle anche con beneficio di inventario. E allora, per parlare di questa faccenda, è con noi Valeria Ghezzi, che è presidente di ANEF, cioè appunto l'Associazione Nazionale Esergenti delle Funivie nel nostro paese. Buon pomeriggio e grazie, Valeria. Buongiorno, grazie. Allora, che fanno i gestori, gli esercenti di impianti a questo punto? A questo punto continuano a battagliare, perché qua si continua a battagliare. La questione in realtà è datata ed è forse peggiore di come lei l'ha appena descritta. Esatto, sì, lo è davvero, quindi lo dica. Allora, le nostre aziende funivarie non beneficiano del cuneo fiscale, quindi della deduzione IRAP, perché sono aziende di trasporto e a concessione. E questo acclarato da anni ormai con l'Agenzia delle Entrate. Con quella stessa agenzia non siamo aziende di trasporto, ma siamo aziende con finalità ricreative, ludiche, senza funzione trasportistica, e quindi paghiamo l'IMU. Una delle due, per come l'ha spiegata è ancora più chiaro. A seconda della convenienza dello Stato, vi si riconosce una qualifica per non darvi gli sgravi e se ne riconosce un'altra per farvi pagare più tasse. È così? Diametralmente opposto. Esatto. Purtroppo è così, per noi è devastante. Lei fa bene a ridere, per le nostre aziende, per il nostro settore è veramente un problema enorme. E però recentemente è arrivata una sentenza che, insomma, la sentenza che è arrivata a fine gennaio del 2015, di fronte a un ricorso dell'Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, contro la società Funivia Araba Marmolada eccetera, e questa sentenza vi ha dato ragione? No. Sentenza, per l'appunto, ci ha detto che la nostra funzione trasportistica esiste solo ai fini IRAP, non esiste più ai fini IMU. Anzi, direi che è stata una sentenza devastante per come è stata scritta, sia sull'obbligo di pagare IMU, sia sull'obbligo di calcolarla su tutto quello che si intende con impianti fissi. Ma vorrei far notare un'altra cosa. Che insomma è come pretendere alle Ferrovie dello Stato, avete detto, di pagare per le rotaie. Sì, anche perché, attenzione, le nostre aziende normalmente non sono proprietarie del terreno su cui insiste l'impianto di risalita. Anzi, di solito quando l'impianto di risalita viene smantellato, noi abbiamo un ripristino dello status quo ante e la montagna torna a essere la montagna del demanio, del comune, spesso e volentieri di un ente pubblico, a volte anche in appezzamenti privati, ma raramente la montagna è di proprietà dell'impiantista, cosa che sembra anche abbastanza logica. Quindi sì, dov'è il patrimonio che noi tassiamo? Mi sembra una domanda così logica che spero che chi è in ascolto possa apprezzare, che di fronte a questa logica però gli apparati tributari dello Stato restano impermeabili, perché l'unica cosa che interessa loro ovviamente è il gettito, sia quello ovviamente che si determina, non è un gettito in termini di minor spesa per la decontribuzione che vi viene negata, sia invece il gettito aggiuntivo che vi viene richiesto. Avete avuto risposte con interlocuzioni politiche e politiche? Qualcuno vi ha detto tentiamo di risolvere questa totale illogicità a cui siete sottoposti? Ecco, devo dire di sì. Devo dire che se l'apparato resta impermeabile, probabilmente, almeno in prima battuta, abbiamo avuto un riscontro positivo, vuoi anche indignato, da tutte le forze politiche, oserei dire davvero trasversale. Che vi hanno promesso cosa? Gli interventi? Che ci hanno promesso di intervenire per correggere questa stortura, se con uno strumento di un emendamento, se con lo strumento di un disegno di legge, se con lo strumento su una vedranno legge che loro già verrà fatta o vedranno nuova, loro. Questo ovviamente sarà tutto da determinare, però io devo dire che il mondo politico ha risposto in maniera estremamente positiva, estremamente attiva, quindi questo lo devo riconoscere. Ragazzi, lo diremo quando vedremo il provvedimento, che per il momento è una promessa. Intanto sì, la ringrazio, certo, per aver esposto questa illogicità, e io dico solo a chi è in ascolto che uno Stato che ti considera A e B a seconda delle convenienze è uno Stato che secondo me non merita rispetto. Quando io poi grido Stato ladro, ecco la dimostrazione che mi chiedono sempre, eccole qua. Questa ne è un'altra, quella di oggi, come quella degli 800 dirigenti illegittimi dell'Agenzia delle Entrate, che invece di chiedere scusa continua a dire non fate le impugnative, e sarebbe una vergogna se i cittadini facessero le impugnative, è una vergogna che siano loro i dirigenti legittimi. Ma queste sono le mie opinioni, troverete un articolo su questo sul Messaggero domani mattina, ma soprattutto non perdetevi domani dalle 10 alle 12 i conti della Belva con il punto della settimana. Continuate intanto su Radio 24.